Dunque, nella scorsa settimana è successo un fatto abbastanza singolare. La Coca-Cola, che tutti conoscete, che è una grande multinazionale che non produce soltanto la bevanda nera con le bollicine, ma anche, per esempio, acqua in bottiglia, è stata smascherata in Gran Bretagna perché l'acqua in bottiglia che appunto confezionava lì da ormai da alcuni mesi e che aveva avuto un battage pubblicitario enorme, la Dasani, si è scoperto che null'altro era che acqua del rubinetto, purificata magari, ma sempre acqua del rubinetto. Le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste, i giornali britannici sono insorti e hanno completamente sbeffeggiato naturalmente questa iniziativa come dire, commerciale ad altissimo reddito, però, perché ogni bottiglia di acqua Dasani costa 1,40 euro, mentre la stessa acqua del rubinetto costa ogni cittadino britannico, londinese almeno, circa 4 centesimi di euro, una bella differenza come potete vedere. Allora, la Coca-Cola si è giustificata in questo modo dicendo: sì, è vero, ha ammesso la responsabile dell'ufficio commerciale. La Dasani, la nostra acqua minerale, è effettivamente acqua del rubinetto, però noi la purifichiamo 3 volte e poi aggiungiamo dei minerali e qualche altra cosa. A questo punto si è molto risentito il responsabile dell'acquedotto londinese, che ha detto: ma non c'è bisogno di purificare l'acqua dell'acquedotto perché è già sufficientemente pura ed viene bevuta da tutti. Polemica enorme. La Dasani è dal 1999 negli Stati Uniti la seconda produttrice di acqua minerale dopo l'acqua fina prodotta dalla sua concorrente diretta, la Pepsi Cola, e sta adesso cercando di inserirsi in modo piuttosto consistente in Europa. Ha cominciato appunto con la Gran Bretagna, dove evidentemente non gli è andata molto bene, proseguirà a brevissimo in Francia, dove pare che invece effettivamente si rifornirà da una fonte di acqua minerale, ma vai a capire, e poi probabilmente arriverà in Italia, dove però troverà 2 colossi, non da poco, che naturalmente cercheranno in ogni modo di ostacolarla, la Nestlé e la Danone, che in Italia la fanno da padroni sulle acque minerali.